Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Buonasera, c'è un'innovazione, una tecnologia che vi ha cambiato la vita? Oppure una che sognate ma non è ancora realtà? Raccontatecelo via mail a progress@radio24.it. Enrico ci ha scritto: se dimentico il cellulare a casa, non potrei, chiamando un numero o collegandomi a un sito, avere la possibilità di impostare il trasferimento di chiamata da remoto su un altro numero di telefono, così da non tornare a casa? Qui in studio con noi c'è Lorenzo Luini, del Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano. Buonasera Luini. Buonasera. Che cosa rispondiamo Enrico? Allora, Enrico, rispondiamo: purtroppo al momento non è possibile effettuare quello che lui chiede, perché i principali operatori di telefonia mobile italiani non permettono l'attivazione del servizio da remoto, appunto. Il problema non è tanto legato a questioni tecniche, perché è tecnologicamente implementabile, però è più legato a questioni di privacy. E qualora si risolvesse la questione della privacy, la tecnologia ci sarebbe? Sì, la tecnologia c'è già, perché non è assolutamente difficile, basti pensare che alcuni dei servizi si possono, diciamo, attivare, disattivare dal sito dell'operatore, per cui è questione di mettere a disposizione alcuni servizi oppure non metterli a disposizione. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.